De la rutina se sale de muchas formas, pero mi favorita es con Bretaña, por favor. Experimenta y prueba mezclas con Bretaña. Bretaña acompaña tus mejores momentos y presenta La Hora en la W. 12 del mediodía en punto en W Radio Colombia. Con Bretaña, por favor. En casa o por fuera con amigos. Sube de nivel al momento. Vive la experiencia. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Última hora de esta Italia que se fue y que se apagó. 1994, Domenico Modugno se fue. Triunfó en San Remo en 1958 y fue número uno en los Estados Unidos. Fue diputado y fue dirigente del Partido Radical Italiano. Domenico deja dos canciones, Nel Blu, Dipinto di Blu y La Lontananza. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. La, la, la, la. ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora, come ora, ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente. La lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi. Italia que se fue, de estrellas que murieron, que se apagaron, nos quedan dos muy especiales. Pavarotti murió en 2007, el artista lírico más famoso de todos los tiempos, una leyenda. Su vida fue Módena, su padre panadero, tenor aficionado. Escuchen estos duetos, Luciano con Lucio Dalla. Esta canción se grabó en Módena en 1992 y fue el homenaje a Caruso y luego uno de los más bellos himnos de la Italia de siempre. Oh sole mio. Luciano con Bryan Adams. che terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il pianto. Le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guarda negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima in cui credette di affogare. una festa, che bella cosa andai ornato sole. A te, stand up front a te. Estos obituarios inolvidables. Mango se fue en 2014, el auténtico innovador de la música ligera italiana. Lo interpretó Patti Pravo, Andrea Bocelli, Mietta y Loredana Bertè. Escuchemos Mango y la Rondine. Pagherei un milione anche più, anche l'ultima Marlboro darei, ah, perché tu sei, ci sta, perché accetti ci sta. E così tu cadi giù, io non ti voglio già più, inaccessibile non sei, non cogli dei, tu sei senza te. pagherei un milione anche più, anche l'ultima Marlboro da lei. Oh, perché tu sei oro, oro, oro, un diamante per un sì. Oro, oro, oro, per averti così distesa. Perché accetti ci stai. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Ballet Nacional de Colombia, 60 años. Un homenaje a Sonia Osorio y su legado. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Próximo 6 de agosto, función presencial. Y el 7 de agosto, función presencial y live streaming a partir de las 8 p.m. Adquiera sus entradas o códigos de acceso en tu boleta. Ballet Nacional de Colombia, un espectáculo muy, muy W. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es la W, primer lugar en sintonía. Es el primer café de la mañana. Acompáñenlo con la información más completa de Colombia y el mundo. Comienza su día siempre con la W. La W. Noticias cada instante. Las noches de W Radio ahora son distintas. Música, entrevistas inolvidables, buena onda y contenidos muy divertidos, con producción de bajo presupuesto. Con Montoya, Daniela Arias, Vázquez y el Tiburón. Es el Late Show. Lo que faltaba. Lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. Mientras usted despierta, la W lo acompaña con Amanecer W. En la mañana de Europa y la madrugada de Colombia, conectamos el mundo. La Casa Blanca mantiene la reunión entre Biden y Putin prevista para el 16 de junio en Ginebra. El desaliento por las restricciones en Italia ha propiciado un aumento de las protestas este pasado fin de semana. En el Palacio Real guardan silencio, no comen. Y con el apoyo de la redacción W, le contamos cómo despierta el país. 3.191 docentes en la capital cordobesa han recibido la vacuna contra el COVID-19. Las comunidades del Pacífico, desde los consejos comunitarios y resguardos indígenas, empezaron la movilización. La Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático del Distrito. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana con Laura Sánchez y Luis Fernando Zambrano. Solo por W Radio. Noticias cada instante. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. 1997 se bajó el telón para Mariano Marini, de la Toscana, músicos alrededor suyo toda la vida. En los años 70 fue productor junto a su esposa, fundando la disquera Tiffany. Aquí está Marini con Lo sono il vento y Come prima. Sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha, son l'amor che non sente pietà. Io sono il vento, se t'accarezzo non devi fidarti di me, io non conosco la legge che guida il mio cuore. Son l'amor, la passione d'amor, qualcosa c'è in me, più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa. Son la furia che improvvisa s'adira e che va, fugge e va, dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho

mi è sempre piaciuta, tassare in allegria e la malinconia, non sa se che roba è, tutto ride, che ci posso fare? Non me ne importa se sono sbagliato, tutto ride, che ci posso fare? Non me ne importa se sono sbagliato. Io rido se uno chiagna, se stongo disperato, se non aggiù magnata, rido senza pensare, ma pare che arrivenna ogni turniente passa, se ce la crea e spassa chi all'era se può sta. Sarà difetto grosso che sto qua, ma io tengo il mio passicchio. Sarà difetto grosso che sto qua, ma io tengo il mio passicchio. Mamma. Che se allegria, che se allegria! No, chi lo come dice dalla televisione? Allegria, allegria! Chi è? Che dice? Anche un nonno mio diceva, lo nonna mia diceva, che tutta l'impacenna facevi sararenne, e a così voglio fa. Chi si ho difetto mia, voi mo già lo sapete, siamo con me rarite, che bene va farà. Auguri, auguri! Verso l'ora vespertina per il piccolo tre re, una bella signorina camminava innanzi a me, ammirando il dondolio del grazioso sorgitin, ascoltavo il tintinnio di parecchi suoi oggettin. La sua borsetta faceva tac tac, i ciondolini sec sec sec sec, i tacchettini tic tic tic tic, e anche il sera toc toc toc toc. Mentre il mio cuore che batteva di più, faceva su su su su su su. Sai, ti presentai, lei è papà, e lei le ri, tu così te la invitai a montare in un taxi, se ne andammo per via Tasso, per godere in libertà, senza impicci né fracasso, la poesia della città. Passea il motore, tac tac tac tac, passea la tromba, sec sec sec sec, passeano i vetri, tic tic tic tic, passea il cazzol, tac tac tac tac, mentre i cuscini dell'auto blu, passea su su su su su su su su. Con la sera che distese dal morale stava su, la compresi, mi comprese, e da voi passammo al tu. Lo chauffeur intelligente la sua corsa rallentò, e così naturalmente quel che accadde ordinerò. Borsai la luce e fece sa, si ruppe un vetro che fece se, scappò un bottone che fece sì, mentre che i baffi facevano tocco, finché l'autista non resta più, si chiocca i vesi, tuc tuc tuc tuc, con le alizzamenti che non ritorna più. Nila Pizzi. Murió en 2011. Ganó San Remo en el 52. Dos veces. Estrella de cine, años 60. Bola Colomba, quizás, quizás, quizás. Dio del ciel se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amor, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu, diglielo tu, che tornerò, che tornerò, dille che non sarà più sola, e che mai più, e mai più la lascerò. Fummo felici uniti e ci han divisi, ci sorrideva il sole, il cielo, il mare, noi lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon din don ci faceva il coro. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Tutte le sere m'addormento triste e nei miei sogni piango e invoco te. Pure il mio vecchio ti sogna, pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso tra le coperte. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde tú sientes. respondo. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Arquini Togliani murió en 1995. Parlami d'amore, parlami d'amore maritù. Esta canción es la de los perfumes de Dolce Gabbana. Inició en el mundo musical como clarinetista. Lucho Dalla se fue en 2012. Gran compositor. Anna e Marco. Come sei bella. Se verso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospira, non pensare, parlami d'amore, Mario. Sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non

Para ti que buscas lo mejor para tu familia, Greasy va con tu naturaleza. Con la línea Neutro Greasy, limpia y cuida la piel de toda la familia. Por su fórmula hipoalergénica no irrita la piel y es ideal para piel sensible. Greasy, sé natural. Ahora de venta exclusiva en La Rebaja Droguerías, Minimarket y Lopido.com. Ballet Nacional de Colombia, 60 años. Un homenaje a Sonia Osorio y su legado. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Próximo 6 de agosto, función presencial. Y el 7 de agosto, función presencial y live streaming. A partir de las 8 p.m. Adquiera sus entradas o códigos de acceso en tu boleta. Ballet Nacional de Colombia. Un espectáculo muy, muy W. A las 2 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. ¿Qué va a traer? Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que. En Peláez y de Francisco. Fútbol y algo más. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Es un gusto tenerlo con nosotros, Congressman Jim McGovern. Welcome to W Radio. Thank you very much for being with us this evening. I'm happy to be with you. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. En Amanecer W no solo tenemos las principales noticias de Colombia y el mundo. También hay espacio para nuestros oyentes. Hola, soy Elena de Barcelona. Carlos desde la ciudad de Manizales. Los saluda Patricia al sur de Francia. Alfonso desde Miami. Mi nombre es Benjamín desde Medellín. Los saludos desde Italia. Chalón, chalón, buenos días. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana con Laura Sánchez y Luis Fernando Zambrano. Más oyentes, más W. Thank you.